Allora, sì, è un'uscita che mi diverte molto, anche se il tema è abbastanza drammatico, è La febbre del gioco di Dostoevsky. Sappiamo che Dostoevsky ha avuto una vita avventurosissima, molto tormentata, addirittura è stato condannato a morte ed è arrivato fino al punto di vivere la sua esecuzione, che era stata sospesa, ma lui non lo sapeva, era stata una crudeltà pazzesca dello zar di far arrivare lo stesso davanti al portone di esecuzione i condannati, pur avendo già sospeso questa pena capitale. Quindi uno che ha vissuto una cosa del genere sicuramente è, diciamo, già pronto a tutto. E lui in particolare, diciamo, per 10 anni della sua vita è stato un giocatore d'azzardo proprio accanito e disperatissimo. E ci sono delle lettere che lui ha scritto alla moglie, a vari amici, anche a scrittori importanti come Turgenev, in cui sostanzialmente lui chiede soldi per continuare a giocare, no? Ed è incredibile per noi pensare che questa stessa persona, nello stesso tempo, scriveva opere come Delitto e Castigo. Ed era completamente schiavo del gioco. Si rendeva conto, no, anche della vergogna che si portava per questa schiavitù. A un certo punto chiede alla moglie dice, spero che tu non farai mai vedere a nessuno queste lettere. E invece queste lettere ora sono pubblicate in un libro a cura di Fausto Malcovati, che le ha raccolte. E le ha collegate in modo molto sapiente anche a dei passi di romanzi dove Dostoevsky descrive il gioco d'azzardo, quindi con questa competenza diretta, le testimonianze anche della moglie, che era incredibilmente comprensiva, nel senso che si rendeva conto che per lui era quasi un passaggio essenziale della scrittura, cioè voleva mortificarsi fino a raggiungere l'abisso e poi da lì ripartire cominciando a scrivere. E poi infine c'è un commento di Freud, in cui Freud ha analizzato questo atteggiamento estremo di Dostoevsky, un po' arrivando alle conclusioni della moglie, anche se in modo un po' più elaborato, in cui appunto dice che per Dostoevsky la scrittura era un lusso e per poterselo concedere doveva essere proprio disperato. Quindi questo volume raccoglie, no, queste voci che compongono un quadro vivissimo su una faccenda che è anche adesso un dramma sociale, perché la ludopatia non se ne parla tantissimo, ma è una forma di dipendenza gravissima che affligge la nostra società e tra l'altro anche i ragazzi. Oltre a questa nuova uscita ci sarà anche una riedizione in nuova veste grafica di quattro grandi classici. Ce li puoi citare al volo, Claudia? Noi quest'anno compiamo 40 anni, no? Quindi per questo anniversario, che è stato un po' diciamo funestato da questa situazione generale, per cui non abbiamo ancora potuto fare una bella festa, insomma, come abbiamo fatto negli altri anniversari, con tanta gente, con tanto assembramento, insomma non è proprio il caso, dobbiamo aspettare almeno settembre. Per il momento, per comunque lanciare un messaggio ai nostri lettori, abbiamo rinnovato la grafica e quindi abbiamo deciso di fare un fondo chiaro, un po' ispirato ai nostri primi libri di 40 anni fa, con un'immagine invece molto vivida realizzata per ciascuno di essi. E adesso stiamo chiaramente pubblicando tutte le novità con questa nuova veste e però stiamo anche ricomponendo altri libri. Adesso i primi che partono sono Una banda di idioti di John Kennedy Toole, che è un po' una nostra bandiera ormai dagli anni 90 che pubblichiamo questo cult americano, La vedova Van Gogh di Camilo Sanchez, che è una storia bellissima perché è la storia della donna che ha consentito a noi di conoscere Van Gogh, no? Perché Van Gogh è morto suicida senza che la sua opera fosse minimamente apprezzata e si è voluta la moglie del fratello che con tanta tenacia, tanto coraggio e tanta lungimiranza ha fatto invece scoprire il valore della sua opera. Ho paura Torero, che è di Pedro Lemebel, che è un altro classicone meraviglioso di cui si è parlato anche in questi giorni, perché è una storia di resistenza, la resistenza contro Pinochet, con una storia d'amore particolarissima tra un rivoluzionario cileno, è un travestito che fa la sarta e che da alloggio protegge questi rivoluzionari facendo finta di non capire quello che fanno, ma capendolo benissimo. E poi Alla Grande di Cristiano Cavina, che è anche un classico, diciamo, per noi, perché Cristiano Cavina è un autore con cui lavoriamo ormai da quasi 20 anni, insomma, quindi una bella parte della storia della casa editrice l'abbiamo fatta con lui.